Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, buon anno, che questo sia un anno sereno e naturalmente di buone letture per tutti. E allora, per iniziare questo 2012, vi propongo una sorta di breviario, quello che ci viene offerto dal cardinale Gianfranco Ravasi, Le parole del mattino, è pubblicato da Mondadori, 420 pagine, 19 euro. Siamo all'alba di un nuovo anno e allora gustiamo quello che per Ravasi è il profumo di un'alba. Egli scrive infatti che all'aurora c'è una sensazione di purezza persino quando domina il gelo invernale. Essa sembra cancellare gli umori e gli effluvi pesanti del sonno nei locali chiusi e caldi, lasciando spazio alla nettezza del ghiaccio. E qui Ravasi, giorno per giorno, ci propone una citazione laica e una sua riflessione che appunto scandisce tutto il percorso del prossimo anno. Si comincia con il primo di gennaio con una riflessione di Borges, seguono le righe di Ravasi dalle quali traggo questa citazione. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarli e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro. Però quando serve sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono una gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. È vero, non sono gran cosa, come non lo sono le mie riflessioni che da oggi per un anno leggerete. Ma cercherò di essere con voi tutto quello che posso essere. Un libro che pure ci vuole fare riflettere, collegandoci all'insegnamento dei grandi del passato, è quello di un autore inglese, famoso critico letterario, Terry Eagleton, Il senso della vita. Una introduzione filosofica è pubblicata da Ponte alle Grazie, 158 pagine, 15 euro, tradotto da Alessandro Ciappa. Il titolo è altisonante, riconosce lo stesso autore, ma questa materia, egli dice, la vuole trattare nella maniera più leggera e lucida possibile, cercando sempre di farlo con serietà. E ci riesce. Lo fa per esempio Eagleton introducendo riferimenti ad alcuni grandi filosofi, alcuni anche contemporanei come Wittgenstein o Heidegger, in termini sempre accessibili e appassionanti. E l'autore si mostra anche capace di affrontare delle riflessioni di grande attualità, per esempio la convinzione che ciascuno sia artefice della propria vita e che quindi non si debba sentire vincolato da norme religiose o costumi morali che dovrebbero imporre una certa condotta. Scrive infatti il filosofo: oggi moltissime persone istruite, al di fuori della religiosissima America, credono che la vita sia un fenomeno accidentale dell'evoluzione che non ha più significato di un soffio di brezza o di un borbottio intestinale. Ed è interessante la sua conclusione, che lancia un affascinante parallelo tra la vita e un gruppo jazz. Prendiamo un'immagine di vita virtuosa, un gruppo jazz. Un gruppo jazz in una jam session è chiaramente diverso da un'orchestra sinfonica, poiché ogni membro è per lo più libero di esprimersi come preferisce. Tuttavia, ogni musicista suona con una sensibilità che è ricettiva verso il modo in cui gli altri musicisti si esprimono. La complessa armonia che si crea nasce non tanto dal suonare uno spartito comune a tutti, quanto piuttosto dalla libera espressione musicale di ognuno dei membri, che agisce come base per la libera espressione degli altri. Man mano che cresce la vis musicale di ciascun musicista, gli altri, traendone ispirazione, sono stimolati a raggiungere vette più alte. Non vi è conflitto, in questo caso, tra libertà e bene comune. Anzi, questa immagine è il rovescio del totalitarismo. Ciascun musicista, così, contribuisce al bene comune non sentendolo come un sacrificio forzato, bensì semplicemente esprimendo se stesso. Il trapasso da un anno all'altro è sempre un tempo di bilanci e di riflessioni. Allora vi segnalo il libro di Konstanty Gerbert, che è un giornalista e scrittore polacco, Un secolo in 10 giorni, 10 eventi memorabili del Novecento europeo. È pubblicato da Feltrinelli, 304 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Laura Rescio. Questa non è una storia del Novecento, ma sono 10 riflessioni sul secolo, ciascuna delle quali ispirata da un evento memorabile scelto uno per ogni decennio del Novecento. Naturalmente ciascun episodio è l'occasione per inquadrare storicamente quell'evento e per coglierne soprattutto le prospettive e il significato. Ne emerge un libro veramente affascinante anche per la capacità di collegare vari filoni che emergono in ogni singolo episodio. Scrive per esempio l'autore nella sua introduzione: è stato particolarmente affascinante osservare l'intrecciarsi delle trame dei vari racconti. Hitler, pittore disoccupato a spasso per le strade di Vienna, combatterà poi a Ypres, che è uno degli episodi raccontati nel libro, e organizzerà scontri a Berlino, manderà un corpo di spedizione a Barcellona e massacrerà Leningrado. Tutti episodi, aggiungo, che riappunto ritornano nel libro. Continua l'autore: ma c'erano altri legami trasversali rispetto al tempo e allo spazio, la nostalgia per la Vienna d'inizio secolo che si scopre a fine secolo a Sarajevo, o il 1968 comune a Roma, Parigi e Varsavia. Sono tutti episodi di cui spesso sfugge il significato a noi contemporanei. Addirittura al Museo della Città di Vienna l'autore confessa che i custodi e i funzionari incaricati della gestione di questo museo non sanno nemmeno che cosa sia il giubileo del 1908, che è poi invece l'evento con il quale si apre questo libro, il giubileo dell'imperatore Francesco Giuseppe. Oppure, questo è un episodio che ci riguarda più da vicino, l'autore va in Campidoglio ma ha una brutta sorpresa. Scrive infatti: nella sala degli Orazzi e dei Curiazzi al Campidoglio le custodi non sanno che qui si è proclamata l'Europa, perché infatti, spiego, si firmò lì il Trattato di Roma che diede vita alla comunità europea, anzi al mercato europeo come si diceva allora. Mi mandano da uno storico della città che in questo momento è in malattia. A proposito di grandi momenti della storia, vi segnalo due libri di due grandi storici italiani. Il primo è dedicato ad Atene, Il mondo di Atene di Luciano Canfora, pubblicato dalla Terza, 518 pagine, 22 euro. Luciano Canfora è un grande grecista e qui parte dal famoso epitaffio di Pericle che era stato ricreato da Tucidide, quello nel quale Pericle tesse le lodi anche dal punto di vista politico della sua città. Quell'epitaffio, scrive Canfora, fece di Atene un mito, e Canfora appunto ricostruisce, rivisita quel mito, un mito che diciamo subito considera giustificato. Scrive infatti Canfora nelle prime pagine del libro: quella immagine di Atene è comunque fondata e perciò ha retto e alla fine ha vinto. Ma proprio quel mito, il mito della città democratica, è paradossalmente il risultato di un processo nel quale fu la parte aristocratica della città a fare affermare la democrazia. Scrive infatti Canfora, rivisitando e ricostruendo questo mito, che la grandezza di quel ceto, del ceto aristocratico di Atene, consistette nel fatto di aver accettato la sfida della democrazia, cioè la convivenza conflittuale con il controllo ossessivo, occhiuto e non di rado oscurantista del potere popolare, di averlo accettato pur detestandolo. Insomma, la democrazia era considerata pessima, però appunto Atene ci puntò e ci scommise per evitare che, diremmo noi oggi, prevalessero delle spinte populiste. E quindi l'opera di Canfora è un'opera veramente appassionante, perché spiega come si è costruito questo mito, ma soprattutto quali sono stati i protagonisti fondamentali di questo mito. Naturalmente ha un ruolo centrale nella narrazione Pericle e il dibattito sulla democrazia che, come scrive Canfora stesso, non fu mai banale. Del resto a quel dibattito parteciparono delle menti come quella di Platone, che ci viene così presentato a proposito appunto della sua posizione sulla democrazia. Anche Platone, dopo aver fatto esperienza nei regimi politici susseguitisi nella città laboratorio per eccellenza, cioè Atene, ha rifiutato sia l'esperienza democratica in ogni sua forma, sia quella oligarchica. Quantunque attratto in un primo tempo dal governo dei pochi che si proclamavano anche migliori, se ne è ritratto ed ha cercato fuori, presso il potere di tipo monarchico vigente a Siracusa, un'altra via. E da quella delusione è alla fine approdato alla complicata ed esigente sua utopia dei filosofi reggitori. Approdo proiettato in un problematico futuro, non meno utopistico di quello che Tucidide invece proietta nel passato, nell'idoleggiamento del modello Pericleo, un modello trasfigurato, come Platone non mancò di rimproverargli, rispetto a ciò che effettivamente era stato il lungo governo di Pericle. Quale dei due grandi pensatori, Tucidide o Platone, meriti dunque davvero la nobile qualificazione di realista politico, è problematico stabilire. L'altro momento importante nella storia d'Europa e possiamo dire del mondo è legato a un episodio avvenuto nel 1683 che fu certamente decisivo ed è l'assedio dei turchi a Vienna, ricostruito nel libro di un altro grande storico, Franco Cardini, che si intitola Il Turco a Vienna, pubblicato ancora dalla Terza, 778 pagine, 28 euro. Dicevo, una pagina decisiva che si concluse il 12 settembre del 1683 con il trionfo delle truppe cristiane che riuscirono a rompere l'assedio delle truppe musulmane. Su quella data si costruì poi, appunto, di nuovo un altro grande mito e forse si esagerò il significato autentico di quella pagina. Del resto Cardini spiega di non amare le grottesche illazioni semi-erudite para-ideologiche che nulla hanno di seriamente storico per quanto si inseriscano nella consuetudine di un pervicace e perverso uso strumentale della storia. Ciò non toglie, aggiunge lo storico, che comunque sia stata davvero una grande giornata quel 12 settembre 1683, una data che gli fornisce l'opportunità di preparare un affresco molto efficace sull'Europa di quel tempo, con tutti i contrasti non soltanto fra la cristianità e i musulmani, ma anche quelli interni alle varie potenze, e con una forte influenza anche della cultura turca che era iniziata da tempo e che si sarebbe poi sviluppata negli anni successivi e di cui ci sarebbero stati anche echi molto importante nella produzione musicale. Pensiamo per esempio al Ratto del Serraglio, ma pensiamo soprattutto al caffè, l'istituzione nata a Parigi e poi diventata tipicamente viennese, che prende le mosse proprio dal legame, possiamo dire, culturale, di conoscenze proprio con il mondo turco. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi tre libri. Il primo è un romanzo italiano di Roberto Parodi, Controsole, un uomo, un ragazzo e una moto, 10.000 km verso est, pubblicato da Tea, 294 pagine, 13 euro. Questo è un viaggio in moto con padre e figlio dall'Italia al Pakistan che si trasforma in un'occasione per i due per reincontrarsi e per capirsi meglio. Un libro di arte invece, continuano le pubblicazioni delle opere di Federico Zeri, adesso è uscito con Longanesi, Cos'è un falso, a cura di Marco Bona Castellotti, 222 pagine, 19,90 euro, nel quale troviamo raccolte 5 conversazioni di Zeri inedite che non hanno soltanto il tema del falso come oggetto di studio, ma che permettono al grande critico di mettere in luce la propria straordinaria capacità critica. E infine un libro di un filone di moda, un thriller svedese di Christopher Carlson, La casa segreta in fondo al bosco, è pubblicato da Newton Compton, 330 pagine, 9,90 euro, tradotto da Stefania Forlani. Questa è la seconda prova di un criminologo svedese che ha già ottenuto con il suo primo giallo un grande successo in tutto il mondo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ancora buon anno. Se intendete dedicare questi giorni a visitare qualche mostra, vi segnalo che a Milano, a Palazzo Reale, è in corso fino al 29 gennaio la mostra dedicata a una grande pittrice, Artemisia Gentileschi. Si intitola La mostra Storia di una passione, è curata da Roberto Contini e Francesco Solina, si è organizzata dalla Società 24 Ore Cultura, al quale appartiene anche questa radio. In questa occasione vi voglio segnalare un piccolo classico scritto dal maggior storico dell'arte italiana, Roberto Longhi, vissuto tra il 1890 e il 1970, intitolato appunto Gentileschi padre e figlia, e pubblicato da Abscondita, 170 pagine, 20 euro. Questo è uno scritto giovanile del 1906 che ebbe il merito dovuto ai due grandi pittori. Artemisia infatti era figlia di un altro grande pittore. La signorina Artemisia, scrive Longhi, dovette essere molto precoce in ogni cosa e così in pittura. Qui nel libro analizza l'opera di Artemisia che viene anche illustrata nella serie finale delle immagini, quindi questo libro diventa un'ottima guida a visitare questa mostra. Vi offro per questo un ulteriore strumento, e cioè un commento di Marco Carminati, al quale chiedo di segnalarci un quadro particolare importante della mostra. Ciao Marco. Ciao Salvatore. In effetti la mostra di Artemisia Gentileschi qui al Palazzo Reale di Milano è ricchissima di opere veramente interessanti. Ve ne voglio illustrare una, anzi due, è la replica di una Maddalena. La pittrice, come altri pittori del suo tempo, replicava le proprie opere perché la committenza voleva, quando un quadro piaceva, averne un altro, e quindi i pittori erano chiamati più volte a intervenire sullo stesso soggetto. Qui in mostra c'è una Maddalena bellissima che è conservata oggi nella Galleria Palatina a Palazzo Pitti a Firenze. È una grande figura di donna seduta con un abito giallo, che è giallo oro, che fa quasi luce quando noi veniamo in mostra, e però si pente dei propri peccati. La Maddalena è la peccatrice pentita. Accanto, nella stessa piccola sala, c'è un'altra replica identica a questo quadro, che è saltata fuori in una collezione privata, che però, ahimè, ha subito un terribile dramma: manca completamente della testa. Che cosa è accaduto? Naturalmente non sono accadute guerre o fatti calamitosi, è accaduto un fatto molto molto triste, che un mercante d'arte, vedendo questo dipinto, ha pensato bene di tagliare via solo la testa, di ritagliarla con un coltello, con una lama, per poterla meglio piazzare sul mercato. Perché un quadro di una penitente che si macera dei propri peccati, che ha sul tavolo uno specchio e un cranio, è molto meno appetibile di un dipinto a mezza figura con una bellissima donna di belle forme e di candide forme, molto scollata, come è appunto la Maddalena in questo caso. Quindi un caso veramente singolare di come le opere d'arte possono essere danneggiate dalla stoltezza degli uomini che vogliono mettere a frutto sul mercato questi dipinti e li rovinano senza nessuna paura. C'è dalla speranza che, proprio grazie alla mostra, proprio grazie alla presenza di questo quadro tagliato, qualcuno ritrovi la testa e prima o poi la testa ritorni al suo posto. Restiamo in campo artistico con un volume di Robert Walser, il grande scrittore svizzero, di cui Adelphi ha pubblicato Ritratti di pittori, 134 pagine, 16 euro, tradotto da Domenico Pinto. Sono qui raccolti vari scritti dedicati a vari artisti. Walser amava molto l'arte, aveva un fratello pittore e mostra qui delle fulminanti capacità critiche, per esempio in queste poche parole dedicate a Cézanne. Si potrebbe constatare, volendo, una mancanza di corporeità. Si tratta invece di un tentativo di abbracciare l'oggetto, di una presa durata forse molti anni. Colui di cui parlo ferma a lungo lo sguardo, poniamo, su questi frutti, che sono ordinari e insieme fuori del comune. Si immerge nella loro contemplazione. La pelle ben tesa che li fascia, la strana calma della loro esistenza, l'aspetto ridente, radioso, cordiale. Non è a un depresso tragico, andava magari chiedendosi, che non possano essere consapevoli della loro utilità e della loro bellezza? Andrebbe desiderato comunicare, infondere, trasmettere a quei frutti la sua facoltà di pensare, da che ne commiserava l'incapacità a formarsi un'immagine di sé. Dico di essere convinto che se ne dolesse e sia tornato poi ad avere pietà di sé per lungo tempo, senza saperne esattamente la ragione. E segnalo che su Cézanne sono in corso due mostre, una a Milano a Palazzo Reale e l'altra a Parigi, che si svolge a Palazzo del Lussemburgo, a Palais de Luxembourg, ed è aperta fino al 26 febbraio. In questa occasione segnalo anche il libro di Vittorio Gregotti, L'architettura di Cézanne, pubblicato da Schirà, 62 pagine, 10 euro. In questo libro l'architetto italiano trae alcuni paralleli tra la pittura di Cézanne e la pratica architettonica, per esempio rintracciabili nel tempo lungo dell'elaborazione di Cézanne, che è, secondo l'architetto, l'elemento comune alle pratiche artistiche del progetto di architettura, i suoi processi di modificazioni, correzioni, discussioni che accompagnano la sua elaborazione. E questo parallelo l'autore lo propone ai suoi colleghi per invitarli a immaginare, scrive, rappresentazioni capaci di svelare, attraverso i processi analitici costitutivi della forma, alcuni elementi ineliminabili della propria pratica artistica. Anche ogni verità in architettura sarebbe analogamente costituita da strati sovrapposti, come ci insegna la pittura di Cézanne. E quindi, conclude Gregotti, la pittura di Cézanne suggerisce anche per l'architettura una ricerca intorno ai suoi atti essenziali, appoggiarsi al suolo e alle sue qualità, costruire, erigere come modo di riconoscere l'essenza di un luogo, modificandolo e riconducendolo, ristabilendone la conoscenza e su di esso fondare il suo uso. Veniamo invece a due artisti contemporanei. Il primo è italiano, forse il più celebre, uno dei più celebri artisti di questo momento, Maurizio Cattelan, di cui è in corso fino al 22 di gennaio una mostra intitolata All al Guggenheim Museum di New York. Catalan è un artista molto discusso, istrionico, capace sempre di far parlare di sé, e lo ritroviamo in due libri dal taglio molto diverso. Il primo è suo, scritto con Catherine Grenier, che è la condirettrice del Centro Pompidou di Parigi. Si intitola Un salto nel buio, la mia vita fuori dalle cornici, pubblicato da Mondadori, 150 pagine, 18 euro, tradotto da Francesco Peri. Si tratta di un colloquio tra Catalan e Grenier, nel quale la seconda conduce l'artista a parlare di sé e della propria arte. Sentiamo per esempio da questo libro come Catalan reagisca a una domanda non semplice che gli rivolge l'intervistatrice. Che funzione ha per te l'arte? Per me, personalmente, la funzione principale dell'arte è stata quella di salvarmi e darmi una dignità che fino a quel momento non avevo. O se vogliamo, un modo di esprimermi che nella vita precedente sarebbe stato impensabile. Oggi l'arte significa per me far vedere le cose da un punto di vista leggermente diverso, da un'altra angolazione. Non sempre quello che fai è interessante o pertinente, ma a volte riesci a toccare un nervo scoperto, a prendere qualcosa che è sotto gli occhi di tutti e metterlo in una luce tale da risvegliare la gente, farla pensare o discutere. Non saprei dire se sia un bene o un male, ma almeno questo permette di aprire un dibattito. E un dibattito è sempre un momento positivo e istruttivo, anche quando le parti sono in disaccordo. E Catalan in questo libro spiega anche molte delle sue opere più discusse, per esempio La nona ora, l'opera col Papa accasciato per terra, colpito da un meteorite. Un'opera che Catalan spiega così: io non vedo un uomo che ha fallito, ma piuttosto un uomo che soffre, un uomo che porta un grande fardello sulle spalle per tutta l'umanità. Un libro invece critico su Catalan è quello di un noto critico d'arte, anche curatore di mostre importanti, Francesco Bonami, che si intitola Maurizio Catalan, autobiografia non autorizzata, pubblicato ancora da Mondadori, 122 pagine, 17 euro. Questo libro, scrive Catalan nella premessa, è un libro pieno di errori che per caso si rivelano esatti. Potevo evitare di pubblicarlo, potrei fare causa all'autore. E invece, spiega, ho deciso di vietare di non pubblicarlo e di farmi fare causa dall'autore, perché se questo libro esiste è colpa mia che esisto. Insomma, una autobiografia appunto fra l'ironico e il sarcastico che tuttavia Catalan tollera. Per Bonami, Catalan è un artista terrorizzato dalla paura di essere ignorato e di scomparire, benché, come riconosce lo stesso autore, sia un artista che comunque è entrato nella storia dell'arte. Scrive infatti Bonami: nessuno gli potrà mai togliere quell'angolino o quell'attico che si è guadagnato. Il tempo deciderà i metri quadri che gli verranno concessi fra qualche secolo, ma lo spazio minimo indispensabile per essere considerato uno degli artisti che hanno fatto un pezzo della lunga storia di questa arte gli è stato garantito. E questo libro nasce da chiacchiere tra i due, e quindi si parla di un racconto raccontato da Catalan a mo di una biografia autobiografata dallo stesso artista, così scrive Bonami. Ma si tratta anche di un racconto amplificato dal sentito dire o dal riferito, ma non verificato. Perciò è un libro in prima persona, appunto, trattandosi di una autobiografia ancorché apocrifa. Catalan qui ci spiega, attraverso Bonami, come imparò a dire le bugie, per esempio, come si accostò all'arte, quale sia stato il suo rapporto con la politica e tanti altri aspetti. Come capite, c'è molto sarcasmo, un po' di cattiveria, ma anche un filo di partecipazione. Bonami dà un quadro certamente fuori dalle righe di Catalan, che in fondo viene qui sdrammatizzato come dovrebbe piacere a lui. E il libro si conclude proprio con una riflessione dell'artista in occasione della preparazione della mostra al Guggenheim di cui vi ho appena parlato. Catalan entra nel museo di New York per un sopralluogo e in quel momento tutte le sue opere gli compaiono all'improvviso, apparendogli, scrive Bonami, redente dal loro peccato originale di essere cose morte, pesanti, inutili, frutto della vanità e della voracità del mondo delle immagini nel quale erano condannate. Ritornavano a essere idee, sensazioni, sentimenti, paure, preoccupazioni, delusioni e soddisfazioni. Il confettino. Vi segnalo oggi, per rimanere un tema, un libro di Pablo Echaurren, Contro storia dell'arte, pubblicato da Gallucci, 144 pagine, 18 euro. Questo è un confettino per modo di dire, in realtà lo possono leggere benissimo i ragazzi che si troveranno anche facilitati da un linguaggio molto friendly, molto moderno, col quale l'autore vuole dissacrare quelle che sono le interpretazioni classiche su molti fenomeni artistici. Infatti il sottotitolo del libro è Breviario di un Bastian Contemporaneo. contrario, e quindi dai disegni preistorici fino agli ultimi sviluppi dell'arte, comprese le installazioni, questo libro può dare a genitori e figli uno strumento comune per accostarsi e per cercare di orizzontarsi negli sviluppi dell'arte. E a questo punto ringrazio Luca Cremonese, redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro ancora buon anno e vi do appuntamento a domenica prossima.